Benvenuti a tutti, puntata numero 21 di NBA Week, la trasmissione settimanale sulla stagione NBA 2016-2017 su Radio Big World. Stagione regolare praticamente conclusa, ci avviciniamo al momento più importante e interessante della stagione, la cavalcata playoff che dovrebbe iniziare nel fine settimana 21. Ultimi fuochi, ultimi record, ultime posizioni in classifica, ultimi incroci. Oggi è mercoledì pomeriggio, come al solito registriamo e la stagione si concluderà stanotte. Proveremo a fare una piccola previsione del tabellone playoff, ma potrebbero esserci piccolissime modifiche dell'ultimo momento. Comunque, ad ovest la situazione è già determinata. In questa settimana contribuiremo comunque alla trasmissione in podcast di Fanta Bar Sport, dove parleremo di NBA e stavolta a tabellone completo. Quindi mi dedicherò ai consuetissimi pronostici rispetto anche agli awards di fine stagione e il primo turno di playoff. Se vorrete mai ascoltarmi mentre probabilmente sbaglierò tutto, non perdetevelo. Dovrebbe essere online nella pagina di Fanta Bar Sport su Facebook venerdì sera. Seguite anche la nostra pagina Facebook NBA Week, dove inevitabilmente sarà riportato il link per ascoltare la trasmissione. Iniziamo con la settimana e con il racconto di questa, e facciamolo con le partite principalmente di domenica 9 aprile, perché di cose interessanti ne sono successe abbastanza. Cleveland gioca ad Atlanta ed è la partita della domenica anche per Sky. Apparentemente potrebbe trattarsi di una passeggiata per i campioni, che sembrano aver ritrovato un po' di equilibrio e si apprestano ad attivarsi finalmente e definitivamente per i playoff, con un probabile primo posto rinfrancato e giustificato dalla convincente vittoria al TD Garden contro i Celtics della settimana scorsa. I Cavaliers vanno avanti anche di 26 punti e nel terzo periodo la partita sembra avviarsi verso un sereno garbage time già deciso. Già nel primo quarto i Cavs avevano concluso 38-21 e da lì amministrato, tanto da gettare letteralmente la spugna nell'ultimo quarto, smettendo realmente di giocare. Ma il risultato parziale del quarto periodo è 44-18 per gli Hawks, che nelle ultime azioni riescono a rosicchiare un vantaggio praticamente sicuro per i secondi rimanenti. LeBron compie un paio di errori non da LeBron. Paul Millsap segna gli ultimi 5 punti di Atlanta, compreso il tiro sulla sirena che regala ai suoi i supplementari. Cleveland è fuori ritmo, avvia bene il supplementare ma poi si scioglie alla lunga. Clamorosa vittoria finale degli Atlanta Hawks, 126-125. Più di un campanello di allarme per i Cleveland Cavaliers a livello di chimica di squadra, lo capirete benissimo anche da voi. Ok che la partita contava poco, ma Cleveland è comunque ancora in lotta per il primo posto ad est, che malgrado siano di fatto la squadra più forte della conference, qualcosina potrebbe anche contare a livello di decisività. Le statistiche in casa Cleveland: LeBron va in tripla doppia con 32 punti, 16 rimbalzi e 10 assist. Come vedremo però non è il solo ad andare in tripla doppia domenica notte. 45 punti per Kyrie Irving con 8 triple. Dall'altra parte 22 di un decisivo Paul Millsap, 19 per un Dwight Howard che non gioca il secondo tempo della partita, 21 per un Tim Hardaway Jr. che sta concludendo una stagione di tutto rispetto da quasi 15 punti per gara e che quindi non è più abbondantemente una sorpresa per la Lega. Per dovere di cronaca rispetto a questa partita, tanti errori di Cleveland nell'ultimo quarto, ma tantissime pessime scelte arbitrali criticate anche da LeBron James nel post partita. LeBron esce anche per falli a metà supplementare, complice un bizzarro sesto fallo praticamente inesistente a lui fischiato. Lo stesso vale a livello di inesistenza per un presunto sfondamento fischiato a Kyrie Irving nel finale. C'è anche un presunto sesto fallo di Kevin Love poi ricorretto dagli arbitri grazie all'Instant Replay. Insomma, tantissimi errori arbitrali, ma contemporaneamente i Cavs si mostrano in un blackout totale che nell'ultimo quarto coinvolge a giro praticamente tutti i giocatori in campo, portando così ad errori madornali e totale deconcentrazione, come ad esempio un paio di rimesse scandalose, una anche in finale di supplementare, e una perdita di ritmo totale a livello di tiro dal campo. Le mattonate tra quarto periodo e supplementare per Cleveland si sprecano. Nella stessa notte c'era una sfida piuttosto interessante ad ovest. Denver doveva vincere per sperare di mantenersi in scia per l'ultimo posto dei playoff e per farlo avrebbe dovuto battere Oklahoma City, già ampiamente qualificata e che tutto sommato, a parte le velleità statistiche del suo cosiddetto franchise player, non aveva niente da chiedere alla partita. A proposito di velleità statistiche, il numero 0 alla ricerca della tripla doppia numero 42 e quindi del record assoluto di triple doppie in una stagione, aveva già impattato ufficialmente qualche giorno precedente il detentore del record di tripla doppia in media per una stagione, tale leggenda Oscar Robertson. Ecco le sue umili statistiche della domenica notte: 50 punti con 17 su 22 dal campo, 5 triple, 16 rimbalzi, 10 assist, un recupero, 2 palle perse in 36 minuti. Partita mostruosa, record di tripla doppia stagionale acquisito. Quindi, direte voi, tutto a posto, festa per Russell Westbrook e partita ai Nuggets di rincorsa. E invece no. Denver è saldamente in vantaggio all'ingresso degli ultimi due minuti di partita e Westbrook, come al solito, però continua a non arrendersi. 6 da 3, subisce falli, cattura rimbalzi, segna tiri liberi, segna 27 secondi dalla fine, layup del meno 2. Possesso potenzialmente chiude partita per i Nuggets, sbagliato però da Nikola Jokic a seguire, ma poco male. Denver è su più 2 a 2 secondi dalla fine, cosa mai può succedere ancora? Invece succede che Westbrook segna praticamente da 9 metri abbondanti e allo scadere la tripla del 106 a 105. Denver è fuori così dalla corsa ai playoff a vantaggio di Portland, all'interno della quad squadra un altro numero 0 sta facendo cose turche e ne parleremo tra poco. Westbrook completa la 42esima tripla doppia stagionale arrivando a 50 punti con il canestro della vittoria sulla sirena, avendo rimontato la partita praticamente da solo, riscrivendo così un'altra pagina nei libri di storia del gioco. Insomma, una parolina per descriverlo per l'ultima volta, visto che la regular season di fatto è finita, una parolina che comprende una M, una V e una P: MVP. Il suo ultimo mese di stagione ha reso la scelta indiscutibile, a mio avviso oramai. Se non lo vince lui è uno scandalo. Corsa all'MVP che giunge inevitabilmente al termine, mancando solo la proclamazione di fatto. Qualcuno immagino che ancora avrà molti dubbi più di me al riguardo, ed in effetti l'altro in corsa non sta facendo niente per deludere i sostenitori. Nella partita di domenica notte tra Houston e Sacramento Kings, il signor James Harden ha giocato un'altra ennesima partitina non da poco. Chiude anche lui in tripla doppia con 35 punti, 11 rimbalzi e 15 assist. Houston vince 135-128 tenendo fuori Gordon e Nene, confermandosi la squadra più sorprendente della regular season, la terza forza nel power ranking, mina vagante potenziale nei playoff e anche devastante macchina da triple. Faranno incetta di premi sicuramente. In Texas, a mio avviso, arriverà il coach of the year e il sesto uomo dell'anno. Per il premio però di miglior giocatore, mi ripeto, sfortuna per il Barba, ma quest'anno l'ex compagno di squadra ai tempi dei Thunders ha giocato una delle stagioni personali più incredibili di sempre, nessuno glielo può togliere a mio avviso. Nella bella domenica notte da segnalare anche una Toronto vincente sui Knicks con 35 punti di DeMar DeRozan, di fatto ipotecante il terzo posto di conference, con i Wizards inevitabilmente destinati a presentarsi come quarta forza. 40 punti nella notte anche per Carl Anthony Towns, altro giocatore che si è ampiamente confermato con una stagione personale strepitosa. Sconfitta però per i Timberwolves contro i Lakers, che sembrano aver trovato la quadratura del cerchio nelle ultime inutili gare della stagione. 110-109 per LA, il buzzer beater della vittoria è di D'Angelo Russell. Ah, comunque in casa Timberwolves anche 41 punti per Andrew Wiggins, 81 punti dei 110 di Minnesota li segnano in due quindi. A questo punto ad est le incertezze riguardano il vertice e la coda della classifica. Boston e Cleveland appaiate con il primo posto e l'inerzia inevitabilmente rovesciata a vantaggio di Boston, pur sconfitta nello scontro diretto di una settimana fa. Indiana, Chicago e Miami sono vicinissime, Heat e Bulls sono appaiati all'ingresso degli ultimi giorni di stagione, anzi a questo punto dell'ultima notte. Ad ovest invece, situazione ampiamente risolta grazie al giustiziere Westbrook e grazie anche a Damian Lillard e al suo consueto finale di stagione con Portland, che chiude il discorso ottavo posto. È di Damian Lillard la prestazione della settimana nella sfida contro Utah di sabato notte, vinta 101-86, 18 su 34 dal campo, con 9 su 14 da 3 punti per l'altro numero 0. Prende anche 6 rimbalzi, distribuisce 5 assist e soprattutto chiude con il record in carriera e di franchigia di 59 punti. Una performance incredibile. Sabato è stata anche la notte dei ritorni. Per i Warriors rientra l'attesissimo Kevin Durant nella vittoria contro i Pelicans. Chiude con 16 punti, 10 rimbalzi e 6 assist in 31 minuti. Questa è un'ottima notizia. Contrariamente a quanto da me sbandierato nelle ultime due puntate, rientro anche per Dwayne Wade nei Chicago Bulls. Contro i Nets chiude con 14 punti in 25 minuti, ma i Bulls perdono. Comunque la situazione ad ovest di fatto viene già decisa domenica notte grazie principalmente alla sete di Westbrook. Diamo un occhio alle serie del primo turno. I Golden State Warriors affronteranno i Portland Trail Blazers, quest'ultimi avversario insidioso soprattutto sulla singola partita, soprattutto con un Lillard che semmai dovesse replicare una prestazione come l'ha già detta, se accompagnato da McCallum e dal resto del supporting cast, una partita se la può pure portare a casa. Tuttavia il primo turno a mio avviso facile per i vice campioni. Spurs contro Grizzlies. Memphis è squadra bipolare che in regular season ha già battuto tutte le grandi del campionato. Gli Spurs la spunteranno sicuramente, ma potrebbero durare un pelino di fatica. Clippers contro Jazz, serie interessantissima e difficile pronostico, anche perché al momento non sappiamo esattamente quale delle due squadre arriverà prima dell'altra e quindi avrà il vantaggio nel campo. Al momento direi che i Jazz sembrano veramente in super forma, anche se i Clippers sono reduci da un ultimo momento, periodo di regular season piuttosto positivo. Sono comunque consapevoli che il prossimo anno la squadra potrebbe essere rivoluzionata, di fatto potrebbero non avere la forza per aver velleità di progresso importante ad ovest, ma i giocatori comunque ci sono, occhio ovviamente a Chris Paul tra gli altri. Io pronostico Jazz, ma tutto sommato si tratta di un primo turno potenzialmente equilibratissimo. Rockets contro Thunders, la serie che ci darà ulteriore spazio di discussione per il famoso titolo di MVP stagionale. Tutti aspettano Westbrook contro Harden, ma la differenza la farà sicuramente il supporting cast di Houston, nettamente superiore, ovviamente ben orchestrato dal regista con la barba più lunga della Lega e dall'altro regista in panchina che aspetta solamente la consegna della statuetta di Coach of the Year. Per quanto oramai mi sia palesato e anche scoperto per la verità sfegatato tifoso di Westbrook, per quanto riconosca che è evidentemente uno dei pochi capaci di vincere una partita praticamente da solo nella Lega, la realtà è che non ne può vincere 4 in una serie. Sarà indemoniato, darà tutto, ma Houston è potenzialmente squadra da alte mire, vista la sorprendente stagione regolare. Applausi ad OKC se riesce a forzare gara 6. Ad est, la situazione continua a proseguire ingarbugliata. Nella terz'ultima giornata di stagione regolare, in vetta si consuma il controsorpasso dei Celtics ai danni dei Cleveland, sotto shot per la bizzarra conclusione della sfida con Atlanta. Nella notte del 10 aprile, i Cavs lasciano a riposo LeBron e Irving, ottengono 35 punti da Deron Williams che non era stato impiegato ad Atlanta, ma perdono per 124-121 contro i Miami Heat che sono ancora in corsa per l'ultimo posto disponibile. 23 punti e 18 rimbalzi tra loro per Hassan Whiteside. Contemporaneamente, i Bulls non cedono, sconfiggendo i Magic 122-75, e lo stesso vale per Indiana che si mantiene a distanza delle ultime due, battendo i Philadelphia 76ers. Per quanto riguarda la vetta, Boston, come detto, ritorna al numero 1, sconfiggendo i Nets grazie ai 27 punti del solito Isaiah Thomas, e la situazione resta oscura a livello di incroci fino all'ultimo tuffo, evidentemente. Nella notte di mercoledì, quella di cui voi già saprete i risultati all'ascolto di questa trasmissione, ma che per noi sono ancora oscuri registrando, come già detto, il mercoledì pomeriggio, per la vetta della Eastern Conference l'incrocio riguarderà Cleveland che si gioca il primo posto contro Toronto e contemporaneamente Boston che se lo gioca contro Milwaukee. Dovessero vincere entrambi, il vantaggio campo in un'ipotetica finale di Eastern Conference sarebbe clamorosamente ai Celtics. Per la coda, Miami se la gioca contro i Wizards, mentre i Bulls contro i 76ers. Solo una sconfitta per Chicago, diciamoci la verità, apparentemente molto improbabile, regalerebbe playoff ai Miami Heat. Vincessero entrambe finendo a pari merito con un record di 41 vinte e 41 perse, sarebbero comunque i Bulls l'ottava forza della Eastern Conference. Considerando che pure Atlanta, Milwaukee e Indiana sono distanziate più o meno da un match, inutile azzardare ogni tipo di previsione sul primo turno ad est. Due rapide paroline su quelle squadre che per questa stagione ci salutano qui. Stagione di nuovo sfortunata per Philadelphia, che però ha dato dimostrazione di potenziale futuribile intorno alla metà della stagione, prima di perdere di nuovo Joel Embiid. Proprio lo sfortunatissimo centro, di fatto alla prima stagione nella Lega, si è probabilmente giocato anche lo scontato titolo di rookie dell'anno, non giocando la seconda metà di regular season, pur mettendo insieme statistiche di tutto rispetto. Capacità di leadership interessanti e spingendo Philadelphia ad una presunta rincorsa playoff pubblicizzatissima ad un certo punto della stagione, ovviamente rivelatasi irrealizzabile nel giro di poche settimane. Tutto questo giocando con il contagocce. È su di lui, sull'ex prima scelta assoluta Simmons che quest'anno non ha esordito causa infortunio in pre-season e ad un'altra estate che li vedrà presumibilmente protagonisti nel draft, che si basano le speranze dei Sixers e dei loro tifosi quantomeno di provare ad uscire dai bassi fondi della propria division prossimamente. Non dimentichiamoci, comunque, della stagione complessivamente positiva di un altro rookie come Dario Saric, potenzialmente in lotta in questo momento per il titolo di Rookie of the Year. Parlando di draft, considerando le previsioni attuali, quindi lo stato di classifica, guardata al contrario, quindi rispetto al basso, della Lega, la più probabile prima scelta nelle mani dei disastrosi Brooklyn Nets, che, a dimostrazione delle loro pessime scelte organizzative passate, sarà ceduta di diritto ai Boston Celtics. Non male se pensate che questi, già in questa stagione, hanno moltissime probabilità di finire primi nella Eastern e che comunque alla peggio saranno secondi. La seconda scelta dovrebbe, per probabilità, spettare a Phoenix, che potrebbe scegliere qualcuno o qualcosa da affiancare al talentuosissimo ed esplosivo Devin Booker, mister 70 punti che ha obiettivamente completato una stagione spaziale. Terz'ultimo record della Lega, e quindi potenziale top 3 del draft, per i Lakers, squadra che ha inspiegabilmente iniziato a vincere nell'inutile fase conclusiva della stagione, squadra giovanissima, potenzialmente talentuosa, ma indubbiamente indietro rispetto a quello che almeno io mi sarei aspettato dopo l'addio di Kobe Bryant dello scorso anno. Tuttavia, con Magic Johnson general manager e con tante potenziali pedine interessanti anche da scambiare, saranno osservati speciali per quanto riguarda il mercato dell'off season. Squadra delusione da ricostruire e contemporaneamente da smantellare in parte, probabilmente anche da ridiscutere a livello di organizzazione societaria e di gioco, legacy Phil Jackson, sono indubbiamente New York Knicks. L'ho già detto ampiamente nelle puntate precedenti, priorità disfarsi di un Carmelo Anthony oramai più in conflitto che in armonia con la piazza, e disfarsi di un Derrick Rose che evidentemente vuole andarsene e che, visti i presunti episodi di depressione capitatogli durante la stagione e l'ennesimo infortunio, chissà che non stia pure vagliando l'opzione ritiro. Purtroppo sarà complesso per loro disfarsi Joachim Noah, la delusione totale della stagione se si guarda l'opulenza del contratto firmato l'estate scorsa. Imperativo provare perlomeno a recuperarlo a livello psicologico e perlomeno a livello difensivo, così da poterlo mettere a fianco di un Kristaps Porzingis al quale affidare definitivamente le chiavi della squadra e intorno a lui ricostruire. Deludenti anche i Minnesota Timberwolves, quantomeno a livello di risultati. Il roster si presentava alla prova di maturità, contenendo giocatori di talento puro come Karl-Anthony Towns e Andrew Wiggins, che non hanno comunque deluso statisticamente. Lo stesso vale per Zach LaVine, che però ha dovuto chiudere la stagione troppo in anticipo a causa infortunio. Evidentemente da cambiare Ricky Rubio nel ruolo di regista della squadra, ed evidentemente c'è da lavorare sulla fase difensiva del gioco della squadra, potenzialmente con una buona pedina come point guard al posto dello spagnolo, squadra già pronta per un minimo salto di qualità, ovviamente con un lavoro difensivo dietro. Potrebbe anche pescare bene al draft, comunque non dimentichiamocelo. Chiudiamo con New Orleans, interrogativo per tutto il post All-Star Game. DeMarcus Cousins resterà o farà i bagagli dai Pelicans? Nel caso che resti, c'è da lavorare sul progetto Twin Towers con Anthony Davis e quindi sul supporting cast. Facendo un ottimo lavoro e con un pizzico di fortuna, il potenziale di crescita a livello di risultati ci sta tutto per la prossima stagione. Di fatto, la loro scelta nel draft sarà però di diritto ceduta ai Sacramento Kings per effetto proprio della trade di Cousins, regalando in prospettiva ai californiani due possibili scelte nella top 10 del draft. Un'ultima postilla. Abbiamo appena vissuto la prima stagione NBA senza Kobe Bryant, Tim Duncan e Kevin Garnett, tre giocatori che hanno fatto la storia della Lega, ognuno per le sue caratteristiche. Si è trattato di tre superstar che hanno alzato, ognuno singolarmente, di un'asticella il livello concepito di vincente e di competitività. Tre futuri Hall of Famer che hanno lasciato il basket, ognuno in un modo diverso, rispecchiante il tipo di giocatore che anche umanamente hanno rappresentato nello scenario NBA. Come dimenticare l'ultima danza di Kobe circa un anno fa allo Staples Center contro i Jazz? L'ultima partita più pazzesca di sempre a livello realizzativo e non solo. Finì 101-96 per i Lakers in rimonta come da copione, rimonta orchestrata da Kobe, effettuata dal suo genio competitivo con l'ovvio beneplacito dei Jazz, che si sono trovati nel ruolo di sparring partner in una notte sentitissima ed emozionante sia per la città di Los Angeles che per il mondo intero. Kobe ne mise 60, e questo era già sufficientemente pazzesco. Quello che ancora è stato più pazzesco è che tirò la bellezza di 50 volte, di cui 21 volte da 3. Attenzione, la mia non è una critica a posteriori, era la sua notte, doveva fare tutto quello che voleva, consapevole che si trattava dell'ultima volta. Tuttavia, se provate un attimo a ricordarvi come stava fisicamente Kobe, che tipo di stagione aveva faticosamente concluso e che calvario sono stati i suoi ultimi 4 anni nella Lega anche a livello fisico, tralasciando l'aspetto di squadra, immaginarselo tirare 50 volte in 42 minuti anche a livello di energia e di forze raccolte mi appare ancora adesso inspiegabile. Anche riguardando come recentemente ho fatto quella partita, sicuramente giocata al trotto per lunghi tratti, ma comunque sempre alla fine una partita NBA. E quindi, tornando un attimo sul presente, prima stagione senza quei tre, la Lega ne ha risentito? Ne abbiamo sentito la mancanza? La risposta piuttosto triste per la verità è no, e dico triste perché è inevitabile dimostrazione che il tempo vola e passa inesorabilmente, e anche i leggendari simboli di un'epoca oramai andata diventano più un peso che un valore. Si tratta tra l'altro di un'epoca alla quale sono profondamente legato, anche per una questione anagrafica, perché mi sembra ieri che Kevin Garnett entrò nella Lega come rookie non passando dal college, così come esattamente fece poco dopo Kobe Bryant, mentre invece Kevin Durant era già stella conclamata che ancora non aveva lasciato Wake Forest University. Diciamoci la verità, rispettivamente Lakers, Wolves e più positivamente gli Spurs, alla perdita dei loro giocatori simbolo hanno comunque riprodotto la stessa stagione di quella precedente. San Antonio ha saputo reinventarsi negli anni e sostituire il Duncan acciaccato dello scorso anno con un veterano come Paul Gasol, ovviamente meno di impatto a livello generale ma più attivo di quanto Duncan non sarebbe potuto essere oggi. Garnett, chioccia lo scorso anno per i giovani di Minnesota, non ha evidentemente completato al meglio il suo lavoro formativo, ma quantomeno gli si può imputare di aver giocato lo scorso anno il ruolo di freno per i giovani Towns, Wiggins e Lavin, visti i risultati in questa stagione. Stesso discorso per Kobe e per quei Lakers che lo scorso anno probabilmente sottovoce si lamentavano della monopolizzazione dovuta dal suo Farewell Tour come limitante per la crescita di un roster giovane, dimostratosi però quest'anno ancora acerbo. Chiaramente, a livello simbolico, perdendo questi tre, abbiamo perso tantissimo. A livello di appeal legato principalmente al gioco e alla qualità competitiva della Lega e delle sue franchigie, niente è cambiato. Ovviamente non siamo neanche vicini a quelle entusiasmanti regular season a cavallo tra gli anni 90 e i primi 10 dei 2000, ma tutto sommato, a voler chiosare su questa regular season appena trascorsa, l'NBA si è dimostrata ancora una volta, a livello sportivo, uno degli spettacoli più belli del mondo, in una stagione tutto sommato carica di spunti stimolanti ed interessanti. Auguriamoci un salto di qualità adesso, nella parte notoriamente più interessante della stagione, cioè i playoff. Chissà che magari non ci sia qualche sorpresa a scombussolare due finali di conference potenziali che appaiono oggi piuttosto scontate. Staremo a vedere, lo racconteremo con le prossime puntate settimanali di NBA Week, che potrete sentire come tutte le settimane in streaming alle 21.30 sul flusso di Radio Big World, sul sito di Radio Big World, dalla mattina dopo in podcast nel SoundCloud di Radio Big World, attraverso il nostro blog medium.com/NBA Week, attraverso la nostra pagina Facebook NBA Week, attraverso il canale YouTube di Belli 13. Ulteriormente, questa settimana e chissà se capiterà ancora, vi ricordo l'appuntamento, probabilmente a partire da venerdì sera, nella pagina Facebook di Fanta Bar Sport, dove farò un'analisi a livello di previsioni sul primo turno playoff a scacchiere completato e proverò a prevedere quelli che sono, a mio avviso, gli award stagionali. Quindi si parlerà di MVP, si parlerà di Coach of the Year, si parlerà di sesto uomo dell'anno, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo, vi ringrazio ancora e anche per questa settimana per l'ascolto. Ci risentiamo la settimana prossima con NBA Week, con la prima puntata dei playoff 2017.